La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori della 24, 16:06 minuti e 58 secondi in questo momento in diretta da Milano. Vi saluto e vi ringrazio per ascolto la versione di Oscar in diretta o in podcast. Vi dice subito di che cosa parliamo. Prima una gentile tirata d'orecchio all'ascoltatore che mi precede un minuto e dice: ma perché Giannino non fa un atto di forza e conduce pure il giornale radio? Lo so, ragazzi, del resto gli altri vanno in vacanza e c'è chi deve restare a fare la trasmissione. Allora, di cosa parliamo oggi? Parliamo del fatto. La notizia del giorno, lo sapete, è la grande conferenza stampa di Gentiloni, che però commentiamo domani mattina con ospiti politici delle opposizioni. Vediamo che cosa dicono loro del bilancio che ha tirato Paolo Gentiloni oggi per oltre due ore di conferenza stampa, dalle 11 fino all'1 e un quarto, 1:20. Quello che denota però il tono politico è che era un tono politico, quello classico di Gentiloni, ma con la definizione di PD forza tranquilla di governo. Nessuna esultanza, nessuna presunzione, una difesa di questa legislatura, l'orgoglio di aver dato in tre diverse versioni con Letta, Renzi e con Gentiloni un PD di governo, il PD come forza tranquilla del governo, ancorata a smorzare i toni, nessuna irresponsabilità, il suo appello verso la campagna elettorale e grande rispetto ovviamente per quello che il Quirinale deciderà di fare. Il governo resta in carica, come sapete, con pieni poteri fino a quando, una volta noto il risultato elettorale, il Quirinale poi assumerà le sue determinazioni, vedremo a chi e come affiderà un incarico di governo, eccetera. Ma il governo Gentiloni resta, anche perché ci sono importanti vicende internazionali in corso, serve un governo nella piena titolarità dei suoi poteri. Ecco, una di queste è esattamente quella di cui parliamo oggi pomeriggio, perché in questi giorni, nelle feste di Natale, due grandi sviluppi. Su che cosa? Sulla questione dell'immigrazione, ma dal punto di vista internazionale. Primo, nei giorni della vigilia di Natale, Natale il 26, si è riaperto il corridoio mediterraneo, nel senso che centinaia e centinaia di esseri umani e minori sono stati risalvati nell'agitato Mediterraneo, quindi sono ripartite le partenze. A questo proposito il Presidente del Consiglio Gentiloni ha sottolineato, tra i punti di cui era maggiormente fiero, i numeri gli danno ragione, la diminuzione da luglio a oggi del 70% degli sbarchi nel nostro paese. Da inizio anno rispetto al 2016 siamo a un meno 16% e rotti, quasi meno 17%, ma da luglio in poi il rubinetto si era chiuso, da giugno a dire la verità, grazie alle misure assunte da Minniti coordinandosi anche con la Libia, misure che tanto poi polemica hanno suscitato, sia per il cambio di regime nei confronti delle organizzazioni non governative che agivano prima nel Mediterraneo, vi ricordate le polemiche. Sta di fatto che però in questi giorni il corridoio si è riaperto. Che cosa sta succedendo? Ci porremo la domanda. Perché questa riapertura di un rubinetto che era stato di molto ridotto? Primo. Secondo, proprio in questi giorni un altro annuncio importante da parte del governo, e cioè la missione militare che si aggiunge a quelle già in corso nel nostro paese, di cui darò poi le cifre tra poco perché sono in via di riduzione nel 2018, noi siamo già presenti con le nostre forze militari in diversi teatri delicati, e comunque l'annuncio da parte di Gentiloni, che oggi lo ha rivendicato riconducendolo ai due anni in cui è stato ministro degli esteri, di una missione militare in Niger. Si parla della partenza intanto di 120 militari italiani entro febbraio, e la cifra poi dovrebbe salire fino a 470 uomini con il supporto anche di due aerei. E questa missione militare in Niger, secondo anche le fonti ufficiali delle forze armate italiane, del generale Graziano, che ha parlato, è una missione non combat, a differenza di quella francese. Adesso vi do un po' di numeri di chi è presente in questa missione internazionale in Niger. Ricordate che il Niger fa parte della parte africana del Sahel, confine a sud con la Nigeria e a nord lunghissimo confine con l'Algeria e con la Libia, mentre a oriente c'è il Chad, e uno dei corridoi fondamentali del percorso che attraverso il Sahel fanno coloro che poi in Libia vengono presi dagli scafisti e sbarcavano in Italia, il Presidente del Consiglio italiano si è dichiarato fiero del fatto di estendere la nostra presenza. Noi siamo già presenti in Libia con un contingente che anch'esso è non combattente, di 300 militari e 103 veicoli. In realtà abbiamo anche gli uomini delle forze speciali, soprattutto nel Fezzan, dove si stanno, in realtà si sono concentrati gli ex Gheddafiani, e a questo aggiungiamo questa presenza in Niger. E il Gentiloni ha detto: abbiamo posto le basi, essendo uno dei paesi che avevano riaperto l'ambasciata in Niger, fa parte di un compito condiviso a livello internazionale di stabilizzazione. Dovrebbe trattarsi solo di una missione di addestramento delle forze del Niger, che devono affrontare gli islamisti e naturalmente anche i trafficanti di carne umana. In questi due giorni però c'è anche chi ha avanzato dubbi su questa missione in Niger, quindi la domanda diventa: andare o non andare, ma soprattutto per fare che cosa? Perché in Mali ci sono dal 2013 12.000 uomini di varie nazionalità come caschi blu delle Nazioni Unite, e a questi si affianca una missione in cui la parte preponderante, la guida operativa in realtà è quella francese. I francesi hanno un contingente pesantemente armato di 3.000 propri militari all'interno della missione Barkhane, questa missione Barkhane che fu varata al vertice di Saint-Cloud dal presidente Emmanuel Macron una volta eletto. E questa missione sta raccogliendo attualmente i suoi fondi, perché è stata presentata con una dotazione di quasi 500 milioni di euro, di cui 50 pagati dall'Unione Europea, altri 50 dagli Stati Uniti, altri 50 dai 5 paesi africani che sono coinvolti, cioè il Mali, Burkina Faso, Mauritania, Niger e Chad. La Francia ha una sua quota di finanziamento, che però è contenuta, 8-10 milioni, 100 milioni li metterebbe l'Arabia Saudita, 30 gli Emirati Arabi Uniti, perché questa parte di paesi è parte integrante, diciamo così, di questa coalizione anti-jihadista del Sahel, al contrario, accusando il Qatar di finanziare queste formazioni jihadiste. Ecco, a questa presenza francese e a quella degli altri paesi africani si dovrebbero aggiungere appunto il contingente italiano, contingente tedesco, uno spagnolo e uno belga, e Parigi dovrebbe alleggerire la sua presenza, che è arrivata a sfiorare 4.000 uomini, 500 veicoli, più di 30 tra elicotteri e aerei. Quindi i francesi sono intervenuti con durezza, come nella loro tradizione postcoloniale africana. E la domanda che alcuni osservatori italiani hanno fatto, uno per tutti, per esempio Gaiani, che ha scritto sia sul Messaggero che sul Sole 24 Ore proprio ieri, è quello di un ruolo italiano apparentemente, tra virgolette, se non viene spiegato meglio, caudatario rispetto al preponderante ruolo francese. Ecco, queste due cose, la riapertura del canale Mediterraneo, secondo l'iniziativa militare italiana, sia pure travestita, presentata come non da combattimento in Niger, sono le due novità di questi giorni da tentare di leggere in una cornice di sviluppo internazionale, perché quello che è evidente è che questo sviluppo del Niger, un po' inaspettato, anche se in realtà era stato diplomaticamente annunciato, è sembrato anche concordato con la missione italiana in Egitto. Se voi vedete il ministro degli interni La Torre, che ieri al Messaggero rilasciava un'intervista, La Torre dà una versione della presenza italiana non proprio coerente al 100% con la missione di addestramento, perché il titolo dell'intervista del ministro La Torre era: daremo la caccia anche ai terroristi, i foreign fighter di lì non passeranno. Quindi significa che la nostra è una presenza combat, non è una presenza di addestramento. Come siamo messi, e qui finisce la mia introduzione, intanto nel 2018, nel quadro generale della nostra presenza militare all'estero, molte delle diverse delle missioni su cui siamo impegnate vedranno ridurre la nostra presenza. La più significativa resta con 700 militari italiani in Iraq Kuwait, 700 militari italiani in Afghanistan, 1000 fanno parte del dispositivo UNIFIL, quindi le Nazioni Unite al confine tra Libano e Israele, poi 300, come vi ho detto, sono in Libia, 118 in Somalia, 90 a Gibuti, 80 in Egitto, 166 in Lettonia, facciamo parte di un dispositivo comune rafforzato di difesa della NATO rispetto alle tentazioni russe, per così dire, e facciamo parte con la nostra aeronautica militare anche delle pattuglie condivise NATO rafforzate sul Baltico dagli sconfinamenti continui dei velivoli russi. E poi l'altra grande presenza italiana è naturalmente in Kosovo, sono 538 militari italiani, ormai siamo 20 anni che siamo lì, e dopodiché ce ne sono naturalmente 1200 impegnati nelle operazioni Mare Sicuro e UNAFOR Med per la sicurezza e il salvataggio delle vite umane nel Mediterraneo. Questo è il quadro della presenza, a cui si aggiungono quasi 500 uomini nel Niger. Cerchiamo di capire meglio, partendo proprio da questo sviluppo di politica di difesa italiana. È con noi Vittorio Emanuele Parsi, come capita spessissimo, che insegna relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano, che ringrazio per essersi reso disponibile in questi giorni ancora festivi. Grazie a lei, professor Parsi. Buon pomeriggio a voi. Come la legge lei questa missione rispetto a A, immigrazione, B, coordinamento delle politiche internazionali rispetto a Francia, Arabia Saudita ed Emirati Arabi? In termini di contrasto all'immigrazione clandestina, o comunque diciamo al traffico di migranti, è un'iniziativa che ha una sua logica, perché in molti riteniamo che l'intervento decisivo sia quello nei paesi di transito piuttosto che nei paesi di origine, questo sia in termini finanziari, in termini diciamo così di ordine pubblico, anche di ordine pubblico rafforzato, come quando si inviano reparti militari, d'altra parte in quelle regioni le condizioni sono tali che non si possono certo mandare i reparti di polizia. È anche vero che c'è un collegamento ormai sempre più forte tra il business del traffico di esseri umani e le forme di finanziamento dei gruppi terroristici, tanto di Al-Qaeda quanto di ISIS, che si sospetta si stia spostando progressivamente tanto in Afghanistan quanto in Africa. Quindi questa commistione rende anche complicato di poter escludere che non ci siano occasioni nelle quali dovrà essere fatto l'uso della forza più attivo per sconfiggere appunto attori che sarebbero determinati a continuare la loro opera anche usando le armi contro i nostri militari. Un ruolo puramente addestrativo, ricordo solo che anche la guerra in Vietnam iniziò con gli istruttori militari, già. Finì come finì, per cui cioè, è ovvio che l'inizio è sempre quello di contare sulle forze locali, poi quasi inevitabilmente le forze locali da sole non riescono a fare cosa devono fare e si finisce per essere sempre più coinvolti, questo va messo in conto. Sull'altra parte della sua domanda, coordinamento con la Francia soprattutto, Macron in questo momento è l'unico leader che c'è in Europa destinato ad avere qualche anno davanti a lui nelle previsioni, perché non dimentichiamoci che in Germania non si capisce più chi succederà alla Merkel, che non è data in ottima salute. Per cui in ultima analisi la Francia è l'unico paese che ha una leadership europea, si muove con molto attivismo, e l'Italia ritiene che non si possa, diciamo così, far distanziare dalla Francia, e quindi visto che non può proporre soluzioni alternative con il suo sommato unirsi a quello che la Francia fa, anche se nelle prese la Francia fa la parte del leone evidentemente. Io le faccio una domanda che a me proprio mi deriva dal fatto di essere un po' appassionato di queste questioni, e ci sono delle cose che non capisco, perché mentre la Francia agisce, non devo dirlo a lei ma lo ricordo solo ai nostri ascoltatori, in quello scacchiere da sempre, cioè ha forti non solo tradizioni ma presenze rafforzate negli ultimi anni militari, con la componente della triade militare, cioè a terra, per aria e navale, quello che è sembrato uscire dalla stampa internazionale, che si chiederebbe agli italiani, a differenza dei francesi che sono nella la loro base fondamentale sia aerea che logistica terrestre a Niamey, la capitale del Niger, fonti internazionali dicono che l'Italia spetterebbe il pattugliamento del confine tra Niger e Libia. Allora, il confine tra Niger e Libia sta a, diciamo, tra i 3 e i 4.000 chilometri, vista la sua lunghezza, dal posto dove da mezzi navali, perché noi non abbiamo naturalmente un dispositivo logistico aeronautico capace di portare mezzi necessari per assicurare sicurezza, trasporti, logistica a 500 uomini, ecco, i porti più vicini stanno tra i 3 e i 4.000 chilometri quasi. Allora, per un paese che non ha proprie basi logistiche lì, non ha la tradizione francese da sempre, postcoloniale e così via, non è un po', posso chiederle, un azzardo? Beh, dobbiamo chiedere la possibilità ai francesi di utilizzare le loro basi come punti di appoggio. Noi abbiamo una buona capacità logistica, però in questi decenni abbiamo sperimentato un'eccellente, anzi, capacità logistica, anche per alcuni aspetti superiore a quella dei francesi, in realtà, in termini di qualità e di complessità. Cioè, lei dice l'esperienza Iraq-Afghanistan, insomma. Sì, ma anche lo stesso Libano, in cui lo sforzo logistico è stato gigantesco. È chiaro che, non potendo portare aerei, dobbiamo immaginare che questa forza, dobbiamo supporre, sperare, auspicare, goda di un nucleo di protezione di aeromobili, probabilmente elicotteri, anche elicotteri d'attacco, che sia sufficiente a fare quello che serve in quelle condizioni. Cioè, anche se un nucleo a terra si trova improvvisamente in difficoltà, possa ricevere un sostegno di fuoco massiccio in tempo molto rapido. Per questo, a parte l'aereo attacco al suolo, però in realtà gli elicotteri ormai possono svolgere questa funzione. È chiaro che avere anche solo un paio di elicotteri in zona vuol dire in realtà averne un reparto sostanzialmente per le rotazioni, per quelle che sono le manutenzioni, eccetera, per cui vorrebbe dire spostare i nostri elicotteri d'attacco laggiù. Forse questo è stato contemplato meno. Ecco, altri hanno notato proprio di fronte a queste, almeno a oggi, apparenti, per quello che ne sappiamo, poiché non sappiamo ancora il dispositivo dove sarà messo in atto, però altri hanno detto: ma perché non rafforzare quella che era sembrata la linea dei primi successi di Minniti? Cioè, consegniamo alla Guardia Costiera Libica, che già l'Italia a destra, equipaggia, finanzia, mezzi aggiuntivi. E in realtà, a quel punto, rispetto a questo corridoio mediterraneo che si sta riaprendo, interveniamo lì. È sbagliato questo ragionamento? No, non è che sia sbagliato in assoluto, però intanto il rubinetto va chiuso anche un po' la fonte, e sicuramente il passaggio nell'Africa saheliana è il punto in cui si può intervenire, che impedisce di creare poi quell'imbuto, quel tappo, quel collo di bottiglia libico, che ogni volta è molto problematico da gestire e anche fin troppo sotto la luce dei riflettori internazionali. D'altra parte, la Guardia Costiera Libica non è che brilli, insomma, per perizia marinaresca e volontà d'uscita. Quando lei diceva come mai sono aumentati gli sbarchi, i recuperi in questo momento, da un lato ci sono i saldi nei prezzi da parte degli scafisti, in bene d'inverno col mare mosso non si muovevano, ma è chiaro che a prezzi stracciati qualcuno compra. E poi c'è la Guardia Costiera Libica che, quando il mare 5, 6, ma già 4, di fatto non esce in mare. Per cui, se non esce in mare, non blocca nessuno. Quindi, cioè, il problema che abbiamo è che col mare che sta peggiorando nelle classiche condizioni invernali, se questi iniziano a fare più operazioni di traghetto, di trasporto, non avremo nessuna guardia costiera che contrasta. Per cui, se i numeri in assoluto sono più bassi, i numeri che vengono intercettati sono insignificanti. E questo, secondo me, spiega in parte centinaia che vengono recuperati in questi giorni. Ma quel contrasto, che è stato vivissimo negli anni finché Macron non è arrivato, tra la posizione italiana e francese rispetto alla stabilizzazione libica, noi che avevamo individuato e scelto come interlocutore al-Sarraj, e invece la Francia come l'Egitto, come la Turchia, il generale Haftar, quindi con la classica bipartizione tra Tripolitania e Cirenaica. Quel dissenso, quell'attrito col governo Gentiloni e Macron si è risolto, secondo lei? Risolto fino in fondo probabilmente no, ma tutti hanno visto però che nessuno dei due, né Sarraj né Haftar, è in grado da solo di far molto. L'attentato dell'altro giorno all'oleodotto nella zona proprio della Cirenaica dice chiaro e tondo che il generale Haftar non è che faceva della forza militare, diciamo così, non controlla neanche casa sua. Voglio dire, cioè, quell'attentato è stato devastante per lui, e questo è il messaggio mandato anche ai francesi. Infatti, allora, o qua ci mettiamo d'accordo tutti e tutti puntiamo un pochino a tenere insieme la Libia, a utilizzare le forze antiterroriste, diciamo così, che ci sono sul terreno in maniera, non dico sinergica, perlomeno non concorrenziale, eppure qui la partita è bella che persa. Mi sembra che quell'attentato abbia un pochino riportato tutti quei piedi per terra, convinto tutti che qua da solo non vince nessuno, per cui magari ci diamo una regolata, è meglio. Questo non fa sì che noi francesi diventiamo immediatamente, come posso dire, condividiamo tutti gli obiettivi, però forse è il momento di smettere di farci dispetti perché non siamo da nessuna parte. Ma sotto la superficie delle polemiche che tutti i giorni sono in America, per come per le uscite di Trump sui vari scacchieri della politica domestica americana e così via, l'impressione che ha lei è che l'amministrazione Trump su questi temi qua, cioè ISIS che si disloca nelle parti desertiche, l'instabilità di numerosi paesi africani, col principe della corona saudita, lo scontro tra Arabia Saudita e Emirati da una parte e dall'altra Iran e Qatar diventa il calor bianco. Secondo lei l'America se ne occupa meno, è distratta, pensa che se ne devono occupare chi sta vicino a quell'area? Come funziona secondo lei l'amministrazione Trump davvero su queste partite? Beh, intanto abbiamo visto il documento sulla National Security Strategy che è stato criticato da tutti come un documento quasi da campagna elettorale, non consistente tra mezzi obiettivi, piuttosto vago, soprattutto un documento che mette nel mirino come competitors la Russia e la Cina, e di fatto però poi non è che, come posso dire, trovi nuove sponde. Certo, c'è un'attenzione a mio avviso eccessiva nei riguardi dell'Arabia Saudita, e questo fatto che in Africa l'Arabia Saudita adesso stia finanziando appunto anche gli sforzi dell'Unione Europea non è una buona notizia, perché Bin Salman sarà anche qualcuno, MBS, sarà anche qualcuno che cerca di modernizzare in qualche modo un paese che non è in grado di resistere così com'è nell'arco dei prossimi 30 anni, se non cambia radicalmente. E in questo senso c'è anche una politica minor mano libera alla parte più estremista del Peru abita. Però i sauditi continuano a restare l'Arabia Saudita continua a restare il posto da cui, non dico in maniera pubblica, ma distinguere quello che è pubblico e quello che è privato da quelle parti è uno sforzo francamente difficile, hanno finanziato gruppi rivali rispetto a quelli che finanzia o di cui è accusato il finanziamento del Qatar, per cui mi sembra che ci siano dei problemi, ma ci sono dei problemi innanzitutto alla linea, e quindi a questo punto io ringrazio automaticamente, tanto era praticamente l'ultima domanda, anche perché ci siamo allargati come scenario, ringrazio il professor Vittorio Emanuele Parsi. Avrete capito che questa presenza del Niger è una presenza comunque in uno scacchiere più delicato di quelli già delicatissimi in cui siamo, dall'Afghanistan all'Iraq, perché è un'area di forte attrito tra uno scontro geopolitico che non riguarda solo i clandestini di carne umana, non riguarda solo la dislocazione di ISIS, riguarda l'atmosfera incandescente in Medio Oriente tra questo principe della corona che ridà vigore alla durezza saudita contro l'Iran e l'Iran e il Qatar dall'altra parte. Quindi la mia opinione è che, d'accordo, andare lì per combattere all'origine sull'asse da cui proviene il flusso dei migranti che poi dalla Libia si imbarca verso l'Italia, ma con una grande attenzione: gli uomini che mandiamo hanno bisogno di un dispositivo di protezione pesante, perché altrimenti li esponiamo a rischi inevitabili che vanno evitati. Questo significa che bisogna dargli velivoli, la componente aerea, eccetera, eccetera. Ecco, magari qualche pezzo d'artiglieria. Se partiamo con l'idea di fare una missione come fosse il Libano, dove non succede niente e dove facciamo anche, come tutti i contingenti UNIFIL, finta di non vedere i traffici di Hezbollah verso Israele, ecco, però stiamo raccontando, secondo me, agli italiani, tanto ai contribuenti quanto ai cittadini, quanto ai familiari dei militari che andranno lì, una cosa un pochino più rosea di quanto non sia. Bisogna sapere che in quell'area si è esposti, si diventa un bersaglio internazionale, al di là delle bande di trafficanti di carne umana. Questa è la mia impressione, anche se capisco che la politica ovviamente in questi giorni tenda a voler mettere un po' più rosea questa notizia agli italiani, però troppe volte in passato, ricordatela, missioni militari partita così e poi abbiamo pianto. Può valere la pena versare il sangue? Insomma, dipende, bisogna vedere qual è la bilancia seria, ma soprattutto bisogna non dimenticare che a quel punto dobbiamo tutelare al massimo i nostri militari che vanno lì. Torniamo tra poco guardando la questione del Mediterraneo da un altro punto di vista, perché avremo con noi il direttore operativo di Proactiva Open Arms, che l'ONG, proprio che più delle altre è stata impegnata in questi giorni di Natale nei salvataggi in mare, nei giorni di Natale a Santo Stefano. Quindi sentiamo, ci facciamo raccontare da loro qual è la loro opinione, cosa sta succedendo. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Allora, abbiamo sentito l'opinione del professor Vittorio Emanuele Parsi sull'inquadramento internazionale di questo sviluppo italiano che vedrà truppe fino a 500 uomini italiane nel Niger, schierate con i francesi, a un altro dispositivo internazionale presentato come no combat. Poi il ministro Minniti dice subito: però noi daremo la caccia ai foreign fighters, quindi un po' difficile, non facciamo solo gli addestratori. E il professor Parsi ci ha spiegato, insomma, c'è una tensione crescente che si vede in Medio Oriente, tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi da una parte, Qatar e Iran dall'altra, e si proietta inevitabilmente anche in questa area. Quindi, insomma, rischi di fronte ai quali ci deve essere un dispositivo militare italiano, però se si decide di andare, molto protetto e tutelato. Però in questi stessi giorni, appunto, si è riaperto, di lì avevamo cominciato e lì torniamo, il corridoio degli arrivi nel Mediterraneo, e abbiamo con noi appunto il direttore operativo di Proactiva Open Arms, che è l'ONG che proprio in questi giorni di Natale è tornata a salvare centinaia di vite umane nel Mediterraneo, e molte decine erano i minori. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a tutti. Allora, innanzitutto, a titolo personale, grazie di quello che fate, ma questo però, detto questo, che cosa nella vostra esperienza sta capitando su questa riapertura del corridoio? Guarda, che cosa sta capitando, diciamo... E sta capitando quello che è successo ormai, da continua a ripetersi da qualche anno. C'è stato un calo, un evidente calo, evidentemente anche per l'azione delle forze libiche, e ultimamente anche per il maltempo. Perciò, cioè, un calo delle forze libiche significa non sono operative, non vanno in mare? No, volevo dire che c'è stato un calo delle partenze nei mesi addietro, partendo da agosto. Sì. E poi, visto che l'hai detto, sì, c'è anche ormai un calo da parte delle forze libiche in campo, perché si sono ritirate, no? Perciò io sinceramente credo che sia un po' tutto dovuto sia al maltempo, che allora ha reso difficile le partenze, sia alla presenza delle forze libiche, sia probabilmente in terra, di quello non ho realmente informazioni contrastate, però in mare sì, e adesso il ritorno o l'aumento delle partenze si deve probabilmente anche a questo, a una diminuzione degli operativi in mare delle forze libiche, e a queste piccole finestre di buon tempo che poi stanno avvenendo normalmente come sempre in inverno. Però sinceramente non posso io affermare realmente che c'è stato un calo e perciò un miglioramento delle condizioni. C'è stato un calo dipendendo da diversi fattori, che sono i fattori di cui abbiamo parlato, però un miglioramento, un calo dovuto a un miglioramento delle condizioni o a una diminuzione del bisogno di queste persone di fuggire da quelle zone, non è per niente vero. In passato, ma fino a pochissime settimane fa, le ONG che sono ancora in mare avevano più volte dichiarato che le modalità seguite dalla Guardia Costiera Libica per bloccare e ricondurre in Libia i migranti erano modalità diciamo contrarie alla legge del mare, cioè violenze, cose di questo genere. In questo caso, quando e se foste testimoni di cose di questo genere, voi cosa potete fare? Niente. Ma non possiamo fare niente, perché ti ricordo che appunto noi siamo stati anche vittime di attacchi armati da parte di queste stesse forze, che probabilmente sono state anche vendute anche come forze che avrebbero salvato queste persone migranti. A noi ci hanno sparato in aria, hanno cercato di sequestrarci, senza poi avere anche dei chiarimenti da parte di chi si è incaricato di arrivare a degli accordi con i libici, o di chi poi ha messo in atto anche allenamenti o istruzioni a queste forze. Noi quello che possiamo fare, fondamentalmente quello che abbiamo sempre fatto, registrare tutto e mostrarlo all'opinione pubblica, mostrare al mondo quello che sta succedendo. Perché sai cosa? Credo che c'è sempre stato mandato un messaggio abbastanza rassicurante su ciò che si stava facendo con questi accordi da parte delle. Però c'è stata una netta differenza tra quello che è stato messo in atto, per esempio, dalla Guardia Costiera Italiana e dalle ONG, che sono fondamentalmente operativi di salvataggio in mare, da ciò che è stato messo in atto con le forze libiche, che sono forze di respingimento. Ci sono delle barche, delle imbarcazioni militari, infatti basta vedere che non hanno neanche un giubbotto salvagente, un giubbotto per salvataggi, e fondamentalmente, evidentemente, abbiamo sempre denunciato che andavano, nel loro operato andava contro tutte le normative internazionali, sia in materia di salvataggio in mare, per poi che finisce sempre in un porto sicuro, e il più vicino e più sicuro evidentemente la Libia non lo è, e poi fondamentalmente anche a livello proprio operativo si è dimostrato, poi si possono vedere i video della Sea-Watch, si è dimostrato un'incapacità, ma proprio perché di base non è stato messo in campo un operativo di salvataggio in mare, è stato messo in campo un operativo militare di respingimento che, come diciamo, come ripetiamo, va contro le normative internazionali. Cioè, quando intervengono i mezzi navali delle forze ufficiali libiche, non riconducono a bordo gli immigrati che bloccano, perché non c'hanno proprio lo spazio, le superfici, non c'hanno la modalità e la procedura del salvataggio in mare? Ma guarda, loro sì che abbiamo visto che li hanno imbarcati, sì, li riconducono a bordo, però in un'operazione che è molto pericolosa, perché fondamentalmente si accostano a queste imbarcazioni, cosa che noi evitiamo per completo, perché sono imbarcazioni molto, molto pericolose, molto precarie, certo, con le murate di un'imbarcazione più alta gli si può dare la botta definitiva per farla ribaltare. Insomma. Bravissimo, bravissimo. Come già è successo, ci sono diversi video che mostrano proprio queste situazioni che si sono sviluppate dall'operato della Guardia Costiera Libica. E poi noi, per esempio, prima di tutto in campo mettiamo sempre il controllo di massa, il controllo delle persone, cercare di mantenere sotto controllo la situazione, perché il numero di persone sulle imbarcazioni migranti che troviamo è sempre molto elevato. Calcola che le stesse imbarcazioni, sia per numero di persone sia per condizioni delle stesse imbarcazioni, sono per default considerate imbarcazioni in distress, imbarcazioni in pericolo. E come si possono vedere tranquillamente dei video degli operati delle imbarcazioni della Guardia Costiera Libica, come loro si accostano, e c'è una valanga di persone che cerca di arrivare a bordo, logicamente, o vengono prese per i capelli, o vengono frustate, picchiate. Allora, evidentemente non sono operativi di salvataggio, operativi SAR, search and rescue, come quelli messi in campo appunto dalla Guardia Costiera Italiana. Perciò credo che sono stati mandati dei messaggi rassicuranti, come il messaggio semplice di dire: no, adesso ci saranno i libici che si incaricheranno di far sì che queste persone non muoiano in mare e non partano, e invece solo con l'intenzione di produrre dei respingimenti. Io lo so, cari ascoltatori, alcuni di voi dicono: che noia, chi se ne frega, fregatevene voi. Io non sono indifferente invece al fatto che ci siano vite a rischio, mentre ci raccontano che non lo sono più. Lo so, cari ascoltatori, lo so che molti di voi preferiscono tirare dritto di fronte a queste cose, però un'informazione è fatta per farvi spiegare da chi c'è lì che cosa vede e che cosa avviene. Mi sembra una cosa, un dovere umano, ecco, innanzitutto, e anche per valutare meglio ciò che ci viene raccontato poi dalla politica, visto che di questo stiamo parlando. Ancora una domanda per Riccardo Gatti. Ciò che hanno scritto di fronte a questo flusso nuovo di arrivi nei giorni di Natale, nei giornali italiani, è che c'era una percentuale nei recuperati in mari dal vostro dispositivo, delle ONG e dalle navi di Aeronav Formed, che testimoniava una presenza molto elevata di alcune comunità di provenienza, come quello del Sudan e i pakistani. E qualcuno ha scritto, anche perché questi sono gli immigrati che in realtà hanno meno, e quindi, per così dire, accedono all'offerta degli scafisti, che durante l'inverno, maltempo, maggiori sono i rischi, si abbassano i prezzi e quindi arrivano di più da queste comunità. Ma questo ragionamento, che applica, per così dire, un criterio di mercato ai maggiori rischi, a cui a quel punto ci si sobbarca e per questo si paga anche di meno, per così dire, ha un fondamento? È davvero così? Ma guarda, io sinceramente l'ho già sentita questa notizia, però mi sembra che non ha nessun fondamento, perché noi le notizie che abbiamo sempre appreso dalle persone che abbiamo preso a bordo sono che i prezzi variano secondo altre variabili, nel senso sia dallo stesso trafficante, sia dal tempo che si sta, sia però non c'è questa legge di mercato che possiamo noi semplicemente trarre a conclusione come questa. Io non ho sentito queste dicerie, nel senso nessuno mi ha detto a bordo questa nuova prassi di diminuzione dei prezzi. Praticamente bisogna rendersi conto che ciò che sta succedendo in Libia è proprio un traffico di persone. E da quello che io ho appreso, che i trafficanti cercano di guadagnare il più possibile, perciò a volte ci sono degli scambi tra gli stessi trafficanti, dopo che le persone hanno già pagato, si scambiano i gruppi di persone sequestrate, ci sono persone che scappano, ci sono persone di casi ce ne sono molteplici, non c'è una logica di mercato semplice, tra virgolette semplice, come potremmo immaginarci. Va bene, allora grazie in quanto altro di questa testimonianza a Riccardo Gatti, buon lavoro e grazie di quello che fate, direttivo operativo di Proactiva Open Arms, che è una delle ONG appunto impegnate nei salvataggi in mare nei giorni di Natale e Santo Stefano. Torniamo subito dopo aver sentito cosa capita sulle strade e torniamo con invece un altro punto di vista, perché c'è una bravissima fotoreporter italiana che, visto che tutti ripetiamo il corridoio balcanico, Turchia, Grecia, Balcani è chiuso, è tornata adesso, che non ce ne occupiamo più, sta in un'isola della Grecia di fronte alla Turchia e ci dice lì come vanno davvero le cose. A tra poco. Motori elettrici simotopgroup.com, la qualità che ha conquistato l'Europa. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati dopo il professor Parsi sulla missione militare Niger, novità di questi ultimi giorni, e dopo la testimonianza del direttore operativo di Proactiva Open Arms, che è una delle ONG che ha raccolto nuove centinaia di migranti nel Mediterraneo in questi giorni di Natale, sia pure a fronte di un fenomeno, ripeto, che da giugno in poi ha visto un calo degli arrivi complessivo del 70% e del 17% da inizio anno rispetto al 2016. Ci spostiamo su uno degli angoli su cui abbiamo spento i riflettori, noi tutti dell'informazione e ovviamente anche voi a casa, cioè di fronte al fatto che nell'estate 2015 la Merkel disse venite e a quel punto la pressione del flusso in arrivo da Turchia, Grecia, Balcani provocò l'esplosione dei paesi est orientali, cioè est europei, con il no generale all'afflusso di tutti i paesi di Visegrad, i blocchi militari alle frontiere e così via, sia divenne, ve lo ricordate, all'intesa con Erdogan 3 miliardi europei per chiudere praticamente il passaggio, e quei 3 miliardi erano una corrispondenza di spesa da parte europea a sbarcarsi ai costi dei profughi che intanto stavano in Turchia, e da allora non ce ne si occupa più perché si dice tanto il corridoio è chiuso. Allora abbiamo con noi una bravissima, fa delle fotografie di una bellezza assoluta, fotoreporter italiana, si chiama Valentina Tambor, che è specializzata, proprio fa dei bellissimi lavori di fotoreporting sul tema proprio della condizione di uomini e donne a rischio nel mondo e senza dignità. Ha fatto un bellissimo lavoro sui bambini di strada di Nairobi, che sono impegnati in una colossale discarica poco fuori Nairobi, e ne ha documentato questa attività. Loro non fanno altro che raccogliere i rifiuti che sono riciclati, e c'è un progetto che li ha visti trasformare poi in strumenti musicali. Ha realizzato diverse mostre, Valentina, anche con il patrocinio della Fondazione Cariplo, e adesso è tornata a vedere che cosa succede in uno dei punti dove, a seguito degli accordi proprio europei che hanno portato alla cosiddetta chiusura del corridoio balcanico, è sorto un hotspot, quindi un centro di identificazione e sosta del flusso che all'epoca era incessante e numerosissimo di profughi. E quindi è in collegamento con noi dall'isola di Lesbos, dove sorge appunto Moria, che è l'hotspot di cui stavo parlando. Grazie di essere con noi, Valentina. Buonasera Oscar, buonasera, grazie a voi. Ti è scappato grazie un sorriso perché ti ho fatto troppi elogi. Vabbè, però fai un ottimo lavoro, io spero che molti vedranno le tue fotografie. Allora, arrivata lì, che cosa capita? Tutto a posto, tutto risolto, non c'è più nessun problema? Certo, ci sono solo circa 6.870 persone attualmente stipate nello spot di Moria. Quindi in un campo che può contenerne 1.500, attualmente ce ne sono 6.870. Il 40% di questi sono bambini sotto i 12 anni. E in che condizioni? Ecco. Perfette casette, servizi, acqua calda? Sì, sì, sì, sì. Ecco, allora io ti dico questo. Sono giorni in cui ho fatto veramente molta, molta fatica a rendermi conto di essere in Europa. Questo perché, come dicevi prima, io ho lavorato anche in Africa in condizioni disperate, in mezzo all'Islam, ma quello che ho trovato qui non ha niente da invidiare a determinate cose che ho già visto. Vado a spiegarmi meglio. Attualmente a Moria l'unica acqua a disposizione dei rifugiati è acqua ghiacciata, acqua quindi durante l'inverno con 3 gradi o 2 gradi è l'unico modo di farsi una doccia, è possono farla, ammesso che possono farla perché i bagni non sono funzionanti, è usare dell'acqua ghiacciata. Questo porta ovviamente i bambini a essere sporchi, in condizioni pessime, ci sono case di scabbia, le donne non hanno possibilità anche appunto anche loro di lavarsi e questo comporta grossi problemi di infezione. Ma anche al di fuori di Moria, quindi subito appena passato lo spot, è sorto l'ennesimo campo che è in un uliveto e fa sempre parte di Moria ma è esterno, e questo è ancora peggiore perché sono solo tende, delle tende, alcune sono delle vere e proprie canadesi dove ci sarebbero 2 persone, ne vengono stipate fino a 5, 6, a volte 7, senza alcuna sospensione da terra, quindi sono sul nudo terreno, sulla terra. In questi giorni sta piovendo, quindi sono sul fango. E all'interno delle tende, molto molto spesso, ci sono casi vulnerabili, quelli che vengono definiti casi vulnerabili e dunque dovrebbero essere trasferiti in sistemazioni più appropriate, quindi dei container. In questo caso posso parlarti di una famiglia curda con cui ho passato la giornata ieri, e c'è una persona anziana fra di loro e 4 bambini, la più piccola ha meno di un anno e viene ancora allattata al seno. Ma queste persone in che condizione sono? Cioè cosa sono? Trattenute? Sono ecco, il discorso è proprio questo. Allora, sono persone che vengono da zone quali la Siria, l'Afghanistan, l'Iraq. Quindi a tutti gli effetti sono rifugiati, sono persone rifugiati, che hanno diritto... Sono nella categoria, esatto, di coloro a cui si riconosce il diritto del richiedere asilo. Sì, assolutamente, assolutamente sì. La maggior parte di loro vengono da zone dove è prevista assolutamente la possibilità di richiedere asilo. Non però e perché li abbiamo dimenticati lì allora? Perché li abbiamo dimenticati lì? Perché qualcuno ti potrebbe rispondere, come sento dire molto spesso, sono troppi, non sappiamo cosa fare. In realtà 6.800 persone, se ridistribuite equamente, non sono poi così tante. Io credo non ci sia, mi dispiace dire questa cosa, ma non ci sia la volontà di guardare veramente all'interno che cosa accade. Attualmente Moria è sotto la responsabilità del governo greco. Quindi sono loro che dovrebbero oggettivamente occuparsi della situazione. Come e perché non lo facciano, se non ci sono abbastanza fondi, se... Quindi c'è gente lì che sta da un tempo considerevolmente lungo. Quasi 2 anni. Ci sono persone che sono lì da 2 anni. Ci sono stati casi di suicidio, ci sono casi di autolesionismo, i bambini soffrono di attacchi di panico e ansia. Ti posso dire questo, c'è una clinica di Medici Senza Frontiere che è apposta proprio di fronte al campo di Moria, che è apposta per bambini e donne incinte. Molto spesso si recano lì genitori con questi bambini che fanno fatica a respirare, convinti che sia asma, si tratta invece di attacchi di panico. Parliamo di bambini di 2-3 anni. Ora che un bambino di 2 o 3 anni possa avere degli attacchi di panico, lasciami dire. Quindi anche il periodo sanitario è quello di Medici Senza Frontiere, non è quello tra virgolette ufficiale greco? No, perché ci dovrebbe essere il Ministero della Sanità, però diciamo che se non hanno un supporto, quale in questo momento quello di Medici Senza Frontiere o di Medicine du Monde, che opera anche lui sempre al di fuori del campo, attenzione, cioè possono entrare, possono verificare la situazione, ma i loro, diciamo, hotspot sono esterni al campo. Senza di loro la situazione sarebbe decisamente molto peggiore. Attualmente i bambini che hanno problematiche vengono inviati allo spot di Medici Senza Frontiere proprio all'ingresso. E poi ci sono, grazie a Dio, numerosi volontari, quali per esempio la famiglia Kempson, che si occupano di aiutare fattivamente, materialmente i rifugiati, portando vestiti, medicinali, generi di prima necessità, quali anche, mi viene da pensare, shampoo, oggetti comunque cose elementarmente necessarie. Esatto. Sì, perché ma i rapporti di Moria non viene dato nulla. Non viene dato nulla. E i rapporti con la comunità greca come sono? Allora, ti potrei dire che c'è una percentuale anche abbastanza alta che tutto sommato si prodiga, non posso dire c'è nessuno li vuole o cose del genere, però sicuramente il malcontento esiste, avvengono episodi quali, ti posso dire, se un rifugiato con la propria famiglia magari entra in un bar, al posto di dargli il bicchiere di vetro gli viene dato il bicchiere di plastica. Oh mio Dio. Ne sono previsti attualmente, visto il regime, per cui ufficialmente il problema è risolto, poi in realtà appunto basta andare e scoprire che non è risolto niente, però non è che ci siano previsti neanche sviluppi, cioè nessuno dice loro tra 5 mesi vi ridislochiamo, no. No, anzi, in questo momento allora il governo greco ha detto che avrebbe spostato circa 2000 persone dalle isole alla mainland, quindi ad Atene, in strutture più adeguate. Allora, i trasferimenti ci sono stati, effettivamente è vero, e continuano ad esserci. Il problema è che continuano ad esserci anche gli arrivi. Quindi il corridoio non è affatto chiuso. No, solo in 5 giorni, fino al 13 di dicembre, sono arrivate 370 persone solo sull'isola di Lesbos. Ecco, questo cari ascoltatori, che dite, che cosa ci fate ascoltare? Vi facciamo ascoltare che, i famosi 3 miliardi a Erdogan, come vedete anche lì, un po' come con la Libia, come vedete sono, scusate se ve lo dico, frottole politiche, perché poi uno va lì e dice, questi continuano ad arrivare, come sarebbe a dire, è chiuso, sì, è l'accordo con Erdogan, il muro impenetrabile, invece no. Perché se ne arrivano 370 solo a Lesbos, capite che complessivamente... E pare sia calato il prezzo anche della tratta Turchia-Grecia. In questo momento fare dalla Turchia alla Grecia, ovviamente questo te lo dico dalle voci dei rifugiati, delle persone con cui ho parlato, può costare circa 80-100 euro. Quindi un prezzo basso che può spingere ancora più persone, no? a tentare questa traversata. Peraltro c'è stato un altro sbarco proprio il 25 di dicembre, dove purtroppo è morta una bambina, non so neanche quanto se ne sia parlato, però è morta una bambina schiacciata dagli altri che erano presenti sulla barca, perché ovviamente i gommoni sono comunque stipati. Quindi questo è un problema che continua a esistere. Sull'isola ci sono delle vedette, molte sono volontari, che pattugliano a tutti gli effetti la costa per vedere se arrivano gommoni, per dare un primo soccorso. E la Guardia, costiera greca è presente, attiva oppure no? È presente, attiva, talvolta sì, talvolta no. Ed è per questo che sono necessari i volontari. Ma io ti dico che è un impegno giornaliero, cioè queste persone lavorano tutti i giorni e tutte le notti. Hanno persino un modo loro di comunicare per avvisarsi e dire, in quel dato punto dell'isola sta per arrivare una barca, perché sono lì con le binocoli, le visori notturne. Vedete una valente, oltre che Valentina, fotoreporter, come si può sostituire, non sostituire, fa informazione, lei lo fa con le sue fotografie, sono meravigliose, andate a vedere quelle che sono disponibili sulle fonti aperte, Valentina Tamborra, però è come e più di un corrispondente di guerra. Allora, abbiamo capito nella trasmissione di oggi, perdonate se ve lo ridico, primo, la missione militare in Niger è meglio farsela spiegare bene, perché andiamo in una parte più a rischio di quanto non ci dicano. Uno, può essere necessario, però bisogna proteggere chi ci va. Due, attenzione, nel Mediterraneo il flusso non è chiuso. Tre, non è chiuso nemmeno nel corridoio balcanico Turchia-Grecia, e ce li siamo proprio dimenticati quelli là, l'abbiamo lasciati per anni e nessuno fa più niente. Che bel bilancio, eh? Grazie Valentina Tamborra, Riccardo Gatti e Vittorio Emanuele Parci, appuntamento domani mattina per fare una controcanto della conferenza stampa di Gentiloni, domani mattina alle 8:15, a 24 mattina, e poi domani pomeriggio la versione di Oscar, come tutti i pomeriggi.